Radio Lanterna Pirata con il Numa Pompilio della scena punk hardcore genovese, ovvero Gippy, e io come sempre sono io, me, medesimo e sottoscritto, ovvero l'amabile orso punk, e il mio ego enorme, l'amabile orso punk di Quantiere, che questa sera vi presentiamo, insomma abbiamo l'onore di intervistare un gruppo storico alla quale non avremmo mai sperato proprio. No, esatto, esatto, anzi ci siamo già ritenuti fortunati quando siamo andati a vederli al Dordoni una serata di un'ignoranza epocale, epocale, e pensavamo che fosse l'unica possibilità per rivedervi, invece siete venuti addirittura qui a casa nostra in occasione dei festeggiamenti per i 30 anni di Gabri. Auguri, bravo, auguri. Ci sei arrivato, e abbiamo con noi i Billy Boy e la sua banda direttamente da Piacenza, giusto? Piacenza e dintorni. E dintorni, molto dintorni, molto. Bene, il primo brano che ci siamo andati ad ascoltare è stato quale? Alleluia. Alleluia, preso da Trippa Bianca Sardi, Sodomia, chiedo. Sì, è stato anche sul anche sul demo, insomma, sì. In più sì, È uno dei primi. Uno dei primi. Uno dei primi. L'ignoranza cominciava da lì. Sì, sì, sì. Ma ci stava bene per come introduzione al podcast, che uno dice: ah, sì, ascoltiamo sto podcast, sì. Inizia subito i canti liturgici. Sì. E diciamo che se va avanti, insomma, vuol dire che è veramente motivato a sentire questa intervista. Sì, sì, sì, fino all'osso, scherzi. Sì. Manca Dio. Io non ho ossa, quindi poi ben immaginare. Anche i pezzi, alcuni dei pezzi che mi ho selezionato dopo sono proprio sottolineati. Sì, perché insomma. Voi Giduschi Nazareth, sì, siete i maestri di quel filone lì, no? Bene, sì, sì, sì, bene, sì. Bene, bene, insomma, come avete capito, il clima è bello rilassato e sì, se ne diranno. Sì, un'intervista molto intelligente. Consola. Che ci sia tu, ma quello è un altro discorso. Beh, io so che alzo la media, effettivamente. Non volevo farmi sentire allora, così bassi. Ma... che... perché, allora, dunque. Gigante. Vediamo di girare un attimo le file. No, ma tu, parla, tranquillo e sereno. Allora, un po' qualcuno che dica un po' di storia, lo so, sono domande menose, però qualcuno deve... sono istituzionale. Pilone centrale. Detto pilone. È l'unico che è rimasto della formazione, quella originale della prima formazione. Non te la menare. No, dopo è arrivato subito lui, ma dopo pochi mesi. Dopo anni. Dopo pochi mesi è arrivato lui, il cantante Claudio. Cantante, non ci credo. Sto piangendo, è un'emozione. Niente, siamo formati nel 94, dopo... Prima avevamo un altro gruppo che si chiamavamo Incoscienti. Sempre per stare a tema. Io suonavo il basso, che suonavo, tiravo le frecce col basso. Ero incapace, l'ho smesso subito e sono nati i Billy Boy. Il nome viene da... Viene da film d'Arancia Meccanica. L'idea del nome è stata perché noi provavamo in un vecchio teatro abbandonato. Era di Alleluia, era parrocchiale sotto un oratorio. In una cripta di un oratorio. Avete capito? La genesi più. È un teatro proprio. Neanche noi se sta inventando. Adesso hanno ricominciato. Ancora in voga per le robe parrocchiali. Però l'hanno messo ancora a posto. Però all'epoca sono nati molti gruppi, alcuni sono dati avanti tipo i supereroi, gli arroganti. Siamo nati noi, poi 10 gruppi al mese crescevano e morivano. Facciamo un concerto, facevano e poi. Chiaramente. Però tutta la storia lì, cominciata da lì. Perfetto, invece adesso ci andiamo ad ascoltare. Forse un pezzo. Ah, è qui, ecco, meno male che ci sei. Una domanda assolutamente. Allora, subito, intanto il pezzo è il nano sodomita. Per la domanda ne parliamo dopo il pezzo. Io vorrei fare la pubblicità a Progresso, perché io ho notato che ai concerti spesso te, Gippi, le tipe si vogliono avvicinare a te, ma gli incuti timore perché non sanno cosa dirti, hanno paura di sbagliare. Allora, dovete sapere che Gippi è un grande fan di Star Trek, appunto, era rivolta proprio verso questo. E quindi, donne, se volete avvicinarvi a Gippi, fatevi una cultura di Star Trek che non sbagliate. Ok, quindi il nano sodomita, poi tu fai le tue domande. Sono nano sodomita con la pelle colorata, se mi faccio mi si salta con gli ostico poi fio, devo dire una romulana con la bionda pinguiana, ma il mio santità mi diventa delle trofai. Sono il nano tatuato, non ce l'ha più per nessuno. Sono l'aro tatuato, non ce n'è più per nessuno. ed eccoci ritornati. Dunque, la il domandone di G. Poi in realtà non è un domandone, perché, cioè, già sminuisce, no? già paura di dire la cazzata. È una cosa abbastanza inusuale che un gruppo OI faccia un pezzo su Star Trek. No, no, noi l'abbiamo fatto sul nano sodomita. Il nano sodomita è un'altra cosa. Dovete spiegare chi è. I nomi non si possono fare. I nomi non si possono. Io ho avuto l'occasione. Tanto notate questo tono da quiz show, capito? La domanda è: perché nano sodomita e dovete spiegare perché? Noi siamo, cioè io e Carlo, che è il batterista, siamo fans di Star Trek, cioè io ho tutta la raccolta in videocassetta di Star Trek. Sì, anche quelle un po' più sconce. Kirk e basta. Ok, quindi serie originale. Dopo Kirk basta. Cioè la serie, cioè la serie prima era un western spaziale sostanzialmente, perché prima si sparava, poi si facevano le domande. E poi era no, la prima serie era il capitano Kirk che si bombava un sacco di alieni e sparava un sacco di bastardi. Klingon si odiavano ancora. E la regola era comunque, mi raccomando, almeno in questo pianeta arriviamo e non interferiamo. No. Almeno, ragazzi, almeno in questo. E poi puntualmente. E quindi il personaggio del nano sodomita. Nano sodomita è il nostro amico. Ma un quello dei coloni infatti. No, non è lui. Raccontavo le sue storie di sesso strampalate, ma proprio strampalate, che nel senso. Niente. È abbastanza hard, anche perché una volta si è svegliato con la nonna della tipa che gli stava morendo, gli stava tirando la gamba. Tanto che stava facendo sesso con la nipote. E sono storie vere. E da lì poi ci abbiamo lavorato su, siamo stati in casa, poi una cosa tira l'altra. C'è nata questa così. Avete visto questa similitudine? Ancora vivo, personaggio nuovo inserito in Star Trek. Poi dopo la birra romulana ci sta dentro tutte le cose. La birra romulana che era illegale, cioè è una birra che era bandita dalla Federazione Stellare. Capito, hai visto? Te sapevi sta cosa qua? Io non sono fan, io sono rimasto a spada. Cioè non sei fan di Billy Boy? No, di Billy Boy no. Sì. Ah no, no, infatti. Ma chi? Billy Boy chi? Comunque, invece il prossimo pezzo è sempre per sottolineare la vostra profonda fede. L'ignoranza. Il Papa era un good boy. No, ma che Papa era un good boy? Manco sei capace a leggere. Allora, è no. Sempre di no. Nonna che parla della vita di tutti i giorni. E c'è una curiosità che forse vi farà piacere, forse no. Lei, quando ha imparato a suonare il basso, il primo pezzo che ha fatto era proprio no. Per imparare ha detto: ma con che pezzo imparo? Ah, nonna dei Billy Boy. Anche io ho imparato a suonare la batteria sui pezzi di Billy. No, non è vero. No, proprio cancella completamente. Ormai è stato detto, non può più essere. E quindi ci andiamo a fare il processo di editing. Diciamo questo viaggio nella realtà dei post concerti che abbiamo un po' vissuto tutti. Nonna, devo andare in bagno a mettermi due dita in gola. Certo caro, vai pure, ma non mi sporcare in giro. Cannelloni sono pesanti ma sono molto buoni. Sono da prendere da metà di topi. Adesso se vuoi che ci stanno, sono gli scopi. Non devo andare in bagno. eccoci di nuovo qua. Mentre loro, giustamente, gli ospiti parlano tra di loro come nulla fosse, e la cosa mi piace. C'è questo clima cordiale che è molto bello. Sei al pub, e adesso siamo tra amici. Esatto, esattamente. Vabbè, amici, dopo la cappella di prima. Dopo la cappella di prima, ora lo sai. Analfabetismo. D'altra parte sei in mezzo teutonico, cioè non ti sporchi a leggere gli idiomi latini, no? Capito? È un po' abbassarti a livello nostro, che notoriamente siamo zozzoni. Bene. Infatti, come detto, è una roba disumana. Sì, siamo come. Ma tu non sudi? Vabbè, ecco, che vuol dire? Ah, sì, c'è una malattia che non fa le puzze, ma malattia che non suda. Bene, febbre tutti i giorni, va bene. ecco perché lì che guarda in giro, in realtà non sudando, c'ha la febbre e vede le upupe scarlate. Va bene, il prossimo è il Paper and Boot Boy. Ecco, bella questa domanda. Che domanda, eh? Ah, no, perché no? Ma chi ti ha detto che non lo è? No, esatto. Intanto ho visto una bellissima maglietta serigrafata dai romani con Bergoglio, con scritto la strada Bergoglio proletario. Ho l'onore di possedere. Sono avanti. No, ma ecco, questo pezzo qua adesso ti spiego, sempre per via delle nonne. La nonna del nostro batterista, che era abbonata al giornale di San Patrignano. Ok. Su questo figurati tu il nipote. su questo numero c'era praticamente l'abbigliamento del Papa quando andava a fare le settimane bianche, no? Mi ripari poi. Andava a sciare. Parla lui non parla questo qua. C'è la coscienza storica che fra tutto l'abbigliamento usava i dottor Martin pure io. Bianchi, naturalmente. Il dottor Martin bianchi c'aveva. E c'era tutto l'elenco di cosa portava lui, c'era sui dottor Martin, e da lì è nato la storia del Paper and Boot Boy, insomma. Lo facciamo sempre, al solito ci troviamo dei deficienti e quelle cose lì, cioè. Sì, che tra l'altro poi sarebbe un attimo anche da analizzare. Sì, prego, se vuoi leggere tranquillo. Eh no, perché sì, no, ma tengo la scaletta spunto, per farmene un'idea. Sei sempre stato così lì. Tieni la scaletta così puoi cazziare me quando sbaglio lei. Esattamente. Vediamo lui. Tengo io la scaletta. No, comunque, questa scelta di fare test, diciamo, un po' più sul demenziale, che sei subito stata presa bene. Vengo io. È stata subito perché comunque per forza perché non è che l'hanno fatto in tanti. Ma vabbè, e ci sarà un motivo. È molto più facile fare testi picchio gli sbirri compagno oppure dall'altra parte del allora il discorso è uno, ma perché devi dire delle cose che poi fondamentalmente nel 99% dei casi non sono vere? Cioè, tu vivi la tua vita, cazzeggia, riditela un attimo, vivila un po' più alla leggera. Poi ognuno c'ha le sue idee, poi per lui, ma poi lui è o no divertimento, dovrebbe essere intesa tutta la vita come divertimento, quindi lascia le fenomeno. Non ci interessava la cosa. Cioè, ci piaceva il genere musicale, ci piaceva l'ambiente e tutto, però volevamo essere un po' i cazzoni che siamo, poi fondamentalmente non dipingerci come volevano gli altri, noi ci dipingiamo come cazzo siamo noi. E poi dopo cose di marrone ci dipingiamo, diciamo. Di marrone musicale un po' naif. Sì, riferimenti musicali, Toy Dolls, roba sì, poi vabbè, le influenze musicali chiaramente hanno contato. Vari cose, poi dopo Carcopi, dopo tutto pastone, poi cioè non ci sembrava il caso di insistere su argomenti già triti e ritriti. Ognuno c'era le sue influenze musicali, aveva preso un po' la parte anche per me. Poi non erano nella nostra identità. No, per cui vi distinguete molto questa cosa qui. E che siete, si può dire, trasversali, che piacete un po' nel giro. Siamo uno dei pochi gruppi noi che hanno un briciolo di autoironia. Quello è il sale della vita. L'autoironia deve essere quello che ti fa solo autoironia nella vita, se no non vai avanti. Cioè, vabbè, prendiamo tutto sul serio, però è stata una scelta canzone che parla. Parla l'uomo manubrio. L'uomo manubrio è arrivato per ultimo nel senso del piano. E sarai sempre l'ultimo. Nella nuova, ma sono contento di essere l'ultimo. L'uomo manubrio non per i baffi, ma continuano a beccarsi. Sì, sì. Però comunque, a parte che comunque li conosciamo da una vita, siamo nostri amici, abbiamo accettato subito di suonare anche per questo discorso. Perché ti paghiamo. No, perché comunque il discorso di uno già lavori tutta settimana, ti rompi tutte le settimane, io non ho bisogno di andare a sentirmi un concerto che mi rimarca quanto sia brutto. Che è una vita merda, che è una vita di merda, che tocca lavorare, lo so già che lavoro ore tutti i giorni, non me lo devi altro spiegare. Momento serio, io il venerdì e il sabato voglio solo divertirmi con gli amici, punto, non ho bisogno di qualcuno sul palco. E poi la maggior parte di sta gente non sa anche cosa sia un'officina, qua, capito, a insegnarti a te come si dice da noi, vanno a insegnare i ragazzi a arrampicare. Cioè mi viene a dire delle cose che so benissimo, quindi non me ne frega. Ma se non hai mai fatto un cazzo nella tua vita, te le mani che sono tutto il giorno. Dichiarazioni pesanti da parte dei Billy Boy, attenzione, ci sei diventato di bere la birra senza stare lì a cercare chissà quale significato, cioè tutto qua, va bene. L'accento un po' troppo. Cosa che rotta, c'è spuglio che rotta. La pianta della risurrezione. Vabbè, ora c'è la milizia degli hardcore studi e puri che mi viene a cercare. Sì, esatto. Beh, con casi tuoi. Beh, non mica cercare lui. Perderai punti scena. Perderai punti scena. Vabbè. D'altra parte. Magic buttato. No, ma tanto te ci sei abituato perché di solito siamo. Tipo a volte noi tre, io e lui facciamo le cagate e il GP si va a scusare. Quindi no, lui ci ha abituato a togliere a chi fa cose. No, vabbè, ovvio. Cioè, vabbè, quello, no. Ripeto, è una cosa nostra. È una cosa nostra. Aspetta, una cosa nostra. Una cosa nostra. No, gli altri, cioè, ognuno fa quello che vuole. No, no, in certo. In realtà, proprio inteso ma in quello. Io pensavo che sia stata una scelta anche fra mille virgolette, anche coraggiosa, perché non è detto che. Che comunque il pubblico ha sempre per i motivi per cui bisogna darsi un'aria seriosa, capitate storie, in passato abbiamo avuto più di un detrattore, e ti dico detrattore, questa segnatela perché io ce l'ho terza media. Un detrattore, no, un detrattore che va contrario. Proprio perché facendo una scelta di un certo tipo, cazzona, mettila come vuoi, da tanti è stata accettata perché hanno capito il momento goliardico della cosa, lo spirito. Tanti invece un po' più seriosi, va bene, ognuno liberissimo di scegliere. Sì, sì. Per noi è così, per gli altri sarà in un altro modo. Certo, liberissima scelta. Bravo Claudio, bravo. E quindi il mio nome che poi. Poi c'è la milizia. Ci sono i miliziani. E quindi facciamo un salto in Piazza San Pietro ad ascoltarci cosa ci dice il Papa dal suo pulpito. Cazzate. Di quella volta Dopo queste parole pesantissime da parte dei Billy Boy, da cui tra l'altro l'antenna pirata si dissocia in toto, si dissocia vi totalmente. Prego, non uccideteci, non uccideteci. No, la nostra sola colpa è aver dato il microfono in mano alla gente sbagliata. Noi ambasciatore non porta pene, e nel caso di Gibby, proprio fisicamente, come ben sapete tutti. Quindi, insomma, andiamo avanti con la scaletta. Il prossimo pezzo è Angel con le cappe sporche, che appunto a livello di no. Vabbè, niente, c'è un momento di non temiamo neanche la morte, cioè, esatto, esatto, esatto. Che te devo dire? No, comunque. Sì. Vabbè, comunque siete girato solo in Italia o anche all'estero? Per sapere anche all'estero. L'unica data all'estero in Svizzera. Ah, italiana, sono fatto a Roma. Solo in Svizzera. Da Santro. No, all'epoca abbiamo avuto possibilità di girare molto all'estero, avevamo in programma tour in Giappone, Stati Uniti. Ecco, avete fatto anche uno split con un gruppo giapponese. Sì, però vabbè, l'occasione è arrivata nel momento in cui poi si stava sfaldando il tutto. Quando sono arrivato io? No, te sei arrivato dopo. Mi sono arrivato dopo. Sei sfaldato tutto, dopo. Il batterista è andato a abitare in Canada. Sì, e poi. Quindi vabbè, c'eravamo pseudo sciolti, cioè, roba da star un po'. No, è saltato il tutto. Chi è di voi finito in comunità per riabilitazione? Visto che era un po' roba di... ci avrei scommesso! Prima sudava, Guarda, è come Marduk dell'IT, siamo andati a rapire stasera, non è migliorato. Non è che possa uscire lui quando vuole, noi lo andiamo a prendere, poi lo riportiamo lì e... Vabbè. Mi hanno addormentato perché non si è fatto volare. Con latte. Più. No, il latte più lui non... Bene. Non è abbonato. Latte più. Invece siete ritornati ad ammorbarci perché avete fatto una ristampa del vostro sì, materiale. Sì. No, perché ce l'ho anche a casa, quindi volevo essere sicuro che non ballava il tavolo. Sì, esatto, messa sotto. Avete fatto qualche data di reunion, compresa questa qua che farete stasera. Avete presente di andare a continuare, fare qualcosa di nuovo? Stiamo facendo qualcosa di nuovo, stiamo lavorando. Non dire le cose, curma, che pezzi nuovi, no. A oggi diciamo. Già finiti, già fatti, finiti, completi, e già ho scritto i testi, vediamo. Poi, e poi ci troviamo un po', perché proviamo una volta al mese. Sì, no. E siamo degli stronzi fondamentalmente. Voi sì. Avremo a fare un disco nuovo, adesso vediamo. Sì. Perché musicalmente i pezzi, lui ha dato i testi al pianore Franco, che sono già praticamente sono finiti, cioè i pezzi sono già fatti, basta trovarsi e provarli come gruppi grossi, che uno è da una parte, uno è dall'altra, cioè, in realtà hanno anche il ghostwriter. Va bene, quindi ci andiamo a ascoltare, che sono ghost che non esistono. Traccia il CD vuoto. Angeli con le chiappe sporche, bravo, e qua ci stanno bene. Che non siete conseguenze. Ne pagherai giustamente le conseguenze di quel che, perché si diceva che si vorrebbe fare una versione, qua mi hanno chiesto subito, fai, beh, hai registrato tutto, però quando poi ma attacchi non una bella sto qua. Versione Redux, però no, mai fatta in vita mia, no, quindi no. Quello che c'è, cioè pensa che in passato sono stato anche censurato da certi siti, perché c'erano appunto durante le interviste c'era che bestemmiava qui lassù giù, è ancora scappato, potrei sempre potrei sempre rimediare, no no, che se no vengo vengo censurato, e poi voglio rosico. Bene a Gesù Cristo. E poi rosico, perché venire censurato per una stupidata del genere mi fa rosicare, capito? Non mi trattengo. Quindi siamo arrivati in conclusione, e il prossimo c'è il pezzo mio preferito, vostro, allora me lo sono lasciato per ultimo, che è Clockwork Supermarket o Bombette e Coltelli alla Cassa 2, a seconda di dove viene preso. Ci deve essere qualcosa sotto, qua. No, vai avanti. Cosa vuoi dire? Dai, esprimiti. Io non parlo. Parlo solo in presenza del mio avvocato. Vabbè, fuori onda magari capiremo, perché ci ha avuto proprio una reazione come di mira per traverso. Un bel pezzo. Che non faremo mai dal vivo. Sto pensando piace a te, quindi ma di fatto io già Dordoni mi ero lamentato tornando indietro. Vabbè, non è proprio destino, che lo devo ascoltare live. Figurati. Esattamente, scemo io che l'ho detto. Ovunque, ma non qui. No. Devo dire che il testo è molto bello, è proprio racchiude alla fine quello che era lo spirito lì. But cioè, non lo facciamo. Che dopo detrattore al momento. L'ho fatto anche poche volte. Però non so, non c'è più. È un pezzo in memoria di una persona che non c'è più. No, ma cagare. Non c'è più nel gruppo. Vabbè, ma quelli sono dettagli. Non c'è più. È troppo tecnico, non riusciamo a suonare. Bravo, infatti, tu specialmente. O comunque la vostra evoluzione artistica fa sì che sia un pezzo obsoleto. Dai, esatto. Diciamo, infatti, i pezzi nuovi. Infatti, nonna, infatti, è quello. Il nome del. No, vabbè. No, ma salirà lei. No, come scelte sì, esatto, scelte so, democratiche nel gruppo hanno deciso di non farlo. Come scelta dei pezzi da fare dal vivo, ho scelto io. Scelta democratica. Infatti vorrei far notare la stazza dei vari componenti. Sì, ma immagino come possano essere. Però le lui e Billy Bestia al Dordoni li abbiamo fatti. No, l'abbiamo chiesti. Poi l'abbiamo fatti. Infatti, magari se lo chiedi, si sa mai che un'altra volta. No. Non abbiamo mai fatto. No. Vabbè, mi terrò questa cosa qua per sempre. Pazienza. Andate così, ma anzi, ora che lo so, sono tranquillo, perché se poi vengo, non me l'aspetto. Quindi dico, capito? Occhio quello che non ti aspetti, che poi. Un attimo, che sì. Si sa mai. Bene, siamo giunti in chiusura, GP, che ne dici? Sì. Ci siamo tolti un sacco di domande. Volete aggiungere qualcosa? Sì, non ero io che parlavo, era l'altra parte di me, quella cattiva. È bipolare lui. Io sono bipolare. Vabbè, vi ringrazio, ciao. Amici come prima. Va bene, e quindi. Bipolare perché c'hai i piedi freddi. E la testa calda. Perché avevo la testa calda, me l'ha sempre detto che mia madre. Sì. Va bene. Clockwork Supermarket, noi salutiamo come sempre dicendo Yahey! Mollo, sei stato mollo. Quando vuoi una partitina in oscoltelli.